giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Dopo la candidatura e la presentazione del logo, la città lancia la sfida. A Monfalcone si è parlato di integralismo e democrazia a confronto con lo storico Franco Cardini e l'attore e scrittore Monio Vadia, moderati dal critico teatrale Mario Brandolin. Disputata stamane la 21esima edizione della Muia Longa sul Mar, con la 10 km competitiva e a seguire la Family Color Run di 5 km. A vincere tra gli uomini Ilia Sawani delle Fiamme Azzurre, prima tra le donne Lisa Sain. Una manifestazione sportiva che è anche occasione di fare festa insieme. La sconfitta dell'Udinese a Verona per 1-0 con un gol di Coppola in pieno recupero in una partita chiave per la salvezza mette a serio rischio la panchina di Gabriele Cioffi. Le 12 e 16 minuti in questi istanti, questi titoli. Ancora un buongiorno e una buona domenica da Giorgio Bearz e Lara Zani in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 21 aprile. Con la presentazione del logo, Pordenone si candida a capitale della cultura 2027. Simboli della trasformazione, l'ex birrificio destinato a diventare sede di alta formazione o l'ex battirame, possibile infrastruttura per il turismo lento in bicicletta e a piedi. Il sistema della cultura della città è già mobilitato, Pordenone pronta alla sfida, obiettivo diventare capitale italiana della cultura nel 2027. Sarà il comune a tirare le fila. Venerdì sera la presentazione del logo, a giugno un evento pubblico per condividere le idee da inserire nel dossier. Sono diverse le carte che la città intende giocarsi a partire dai numerosi eventi di qualità ideati e valorizzati nel corso dell'ultimo paio di decenni. Entro il 3 luglio la manifestazione di interesse e a fine novembre la presentazione ufficiale della candidatura. Tra poco meno di un anno si conoscerà il nome del vincitore. Questi i tempi previsti dal bando. Dovesse essere assegnata a Pordenone, la capitale italiana della cultura tornerebbe al nord dopo 4 anni di assenza. La competizione di solito è piuttosto agguerrita. La recente scelta dell'Aquila per il 2026 ha generato più di qualche polemica da parte dei territori sconfitti. Esiste dal 2015 questa iniziativa istituita dal Ministero della Cultura. Sarebbe la prima volta che diventa capitale una città del Friuli Venezia Giulia. Una candidatura era stata abbozzata 3 anni fa proprio da Pordenone per il 2024, ma poi non se ne fece niente. Stavolta si è partiti con maggior anticipo. Del progetto si parla già da un anno, ora ci sono i primi passi concreti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, 2 persone sono rimaste ferite, sono state ricoverate in ospedale in codice giallo in seguito a un incidente che si è verificato intorno alle 6 di questa mattina a Ramuscello di Sesto a Reghena. Le 2 persone si trovavano all'interno di un'auto che è uscita di strada, sul posto i sanitari e i vigili del fuoco. Il Teatro Comunale di Monfalcone ha ospitato un convegno dal titolo Integralismo e Democrazia a Confronto, con la presenza dello storico Franco Cardini e dell'attore e scrittore Monio Vadia, studioso dell'ebraismo e della tradizione giddish, moderati dal critico teatrale e letterario Mario Brandolin. Il dibattito sull'integralismo e la democrazia, spiegati dal medievalista Franco Cardini e dall'attore e scrittore Monio Vadia, organizzato dall'Associazione Libertà, Territorio e Solidarietà, ha riempito fino all'ultimo posto il teatro di Monfalcone. I 2 intellettuali sono partiti dal grande equivoco o errore che ci fa accomunare l'integralismo all'Islam. Cardini ha spiegato che ci sono integralisti cattolici, ebrei e musulmani, ma anche atei e laici, ma si tratta, detto pur sempre, di minoranze. Monio Vadia ha sottolineato quanto l'equivoco, l'ignoranza sul significato dell'integralismo, ma anche di altre parole, viene strumentalizzato per veicolare paure e indirizzare le proprie propagande. Però Vadia è molto più insidiosa l'ignoranza e il parlare a vanvera, perché la democrazia, ha detto, significa anche che sono responsabile di ciò che dico. L'appello di entrambi gli intellettuali ai politici, e Cardini si è rivolto alla sindaca di Monfalcone, di andare in mezzo alla gente e ascoltare quali sono i bisogni reali delle persone. Monfalcone, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, da variabile a coperto sui monti. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi, Gorizia 15, Pordenone 13 gradi e 5 decimi, Udine 13 gradi. A Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, Tarvisia 8 gradi, Forni di Sopra 7, Sappada 3, Biancavallo 2 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolà meno 1 grado e 5 decimi, sul Monte Lussari meno 3 gradi, a Lignano e Grado 14 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporale, quota neve a 900-1100 metri sulla costa, in quota a tratti soffierà vento da nord o nord-est moderato, temperature ancora sotto la norma. Per domani al mattino cielo variabile in seguito da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio precipitazioni diffuse da deboli a moderate. La quota neve sarà in discesa da 1000-1200 metri nel pomeriggio a 600-800 metri in serata e nella notte successiva. Soffierà bora moderata sulla fascia orientale della regione, con raffiche anche sostenute in serata sul Carso e a Trieste. Disputata stamane la 21esima edizione della Muglia Longa sul Mar, con la 10 km competitiva, a seguire la Family Color Run di 5 km. A vincere la gara tra gli uomini, Lia Sawani delle Fiamme Azzurre in 30 primi e 28 secondi, prima tra le donne Lisa Sain, slovena, in 34.06. Una manifestazione sportiva che è anche occasione di fare festa insieme. Sono Ilias Awani e Lisa Shain, rispettivamente per la categoria uomini e la categoria donne, i vincitori della 21esima Muglia Longa sul Mar, organizzata da Trieste Atletica col comune di Muggia, terza delle 9 tappe che compongono il trofeo Trieste 2024. Partenza alle 9.30 sul lungomare muggesano, giro di boa all'interno della base logistica militare del Lazzaretto e ritorno fino all'arrivo in piazza Lodovico Salvatore. Traguardo tagliato in 30 minuti e 28 secondi da Ilias Awani, 28enne delle Fiamme Azzurre d'origine marocchina, ex primatista italiano di maratona, primo degli oltre 600 partecipanti all'agonistica da 10 km della Muglia Longa. Nel suo futuro, quest'estate, il sogno a 5 cerchi delle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli Europei di Atletica Leggera di Roma. Secondo piazzamento per Ahmed El Mazzuri, classe 1990 dell'Atletica Casone Noceto. Terzo Pietro Pellegrini, 23 anni, dell'Atletica Firenze Marathon. Tra le donne, il tempo migliore, 34 minuti e 6 secondi, lo registra la giovane slovena Lisa Shine, 22 anni, seguita da due italiane, Sara Carnicelli, classe 1994 della Imperiali Atletica, e la 28enne Barbara Vassallo dell'Atletica Bagheria. 2.400 invece i partecipanti alla coloratissima Family Run da 5 km, gara podistica non competitiva aperta a tutti, partita poco dopo le ore 11. La Muglia Longa sul Mar segna anche l'ultima tappa in Friuli Venezia Giulia della Run for Hope, la staffetta solidale in favore dell'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Muggia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Calcio in Serie A, la sconfitta dell'Udinese a Verona per 1-0 con un gol di Coppola in pieno recupero in una partita chiave per la salvezza, mette a serio rischio la panchina di Gabriele Cioffi. Sentiamo il mister bianconero nel post partita allo stadio Bentegodi. Non ho percepito una squadra impaurita, ma ho sempre percepito una squadra che voleva condurre gioco e provare a far gol. Siamo stati molto imprecisi, abbiamo avuto noi un paio di occasioni sull'angoli che pareggiano le tre avute da loro e un gol, e poi abbiamo avuto 3-4 palle gol clamorose. Onore al Verona, deve accettarlo, e quindi non parlerei di malattia dei ultimi minuti. C'è da affrontare il recupero giovedì col coltello tra i denti, andare a Bologna col coltello tra i denti e via via, un passo alla volta, guadagnarci la salvezza. In Serie C1 la Triestina è tornata a giocare dopo diversi mesi nel rinnovato Nereo Rocco, ma non festeggia il ritorno a casa con una vittoria e deve anzi accontentarsi di un pareggio strappato in pieno recupero contro il Novara per 2-2. Alla Bardati costretti a rincorrere per due volte i piemontesi, passati in vantaggio alla mezz'ora con Urso e raggiunti tre minuti dopo da Moretti. Nella ripresa il Novara passa nuovamente a condurre con un gol di Ongaro. A evitare la disfatta davanti a 8.000 tifosi pronti a fischiare, ancora una volta mister Bordin ci pensa la dea bendata con la rete del pareggio di Vertainen a tempo abbondantemente scaduto. Con questo pareggio e la contemporanea vittoria del Vicenza per 2-0 col Trento, la squadra fallisce la corsa al terzo posto e dovrà disputare un turno in più nei play-off. Inutile ai fini della classifica l'ultima partita della stagione regolare domenica prossima in casa del Padova. Basket, nell'ultima giornata della fase a orologio in A2, questi gli impegni delle squadre regionali, tutte in trasferta con inizio alle 18. La Gesteco Cividale sarà sul parquet di Vigevano per cercare il decimo successo consecutivo prima dei play-off. La Pudine sarà di scena sul parquet di Cantù, in trasferta anche la Pallacanestro Trieste sul campo di Rieti per ottenere il quinto posto. Volley A2 maschile, la Tinet Prata impegnata ad Aversa per chiudere in due partite la serie degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia contro i locali della Wow Green House, inizio alle 18. Alcuni appuntamenti, pomeriggio interamente dedicato alla danza, quello con cui si chiuderà nella sede della compagnia Area Area di via Fabio di Maniago 15 a Udine, la 14ª edizione di Off Label, rassegna per una nuova danza. Prima l'ormai tradizionale confronto sullo stato dell'arte della coreutica con Focus on Dance. Poi la messa in scena dei lavori degli allievi e allieve del corso di alta formazione, dalle 15. L'ex asilo di Blessano, frazione di Basigliano, si prepara a ospitare lo spettacolo Eden Dondan dell'associazione I Jazz. Lo spettacolo Eden Dondan è un torbido viaggio dall'idillio del paradiso terrestre al più ruvido mondo terreno, vestendo all'occorrenza i panni del sacro e del profano, alle 17.30. Sarà il Duomo di Porcia ad accogliere questa sera il concerto dal titolo The Armed Man, ovvero una messa per la pace, con la partitura del compositore gallese Carl Jenkins, alle 20.45. La 25ª edizione del concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia presenta a Sacile la mostra fotografica Andante con foto, con gli scatti del fotografo Daniele Indrigo. Inaugurazione alle 17 nella chiesa di San Gregorio, dove resterà allestita fino al 5 maggio. E prima di chiudere diamo lettura di un comunicato sindacale dell'Usigrai. Il controllo dei vertici della RAI sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora i dirigenti nominati dal governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi come Antonio Scurati, a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile. In una rete Rai 3 ormai stravolta nel palinsesto e irriconoscibile per i telespettatori. La stessa azienda che ha speso 6 milioni di euro per il programma Avanti Popolo ora avanza motivazioni di carattere economico per l'esclusione di Scurati, motivazioni già smentite dai fatti. Siamo di fronte a un sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico. L'assemblea dei comitati di redazione della RAI mercoledì ha proclamato lo stato di agitazione e ha approvato 5 giorni di sciopero. Noi ci dissociamo dalle decisioni dell'azienda e lottiamo per un servizio pubblico indipendente, equilibrato e plurale. Di seguito ecco la replica aziendale al comunicato sindacale dell'Usigrai. Nessun controllo sull'informazione e nessuna censura sono stati operati dall'azienda nei confronti di programmi e conduttori. La RAI è patrimonio di tutti gli italiani ed esprime oggi più che mai i valori del pluralismo e della libertà di espressione. Sforzo dell'azienda è quello di aggiungere, innovare, sperimentare nuovi contenuti e nuove narrazioni. Aggiungere opinioni, idee e punti di vista vuol dire essere ancora più pluralisti di come la RAI è stata in passato. Nessuno ha mai messo in discussione la possibilità di partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione che sarà condotta da Serena Bortone, la cui presenza era stata ampiamente annunciata. Il tentativo di strumentalizzare con polemiche sterili un caso montato sul nulla rischia di vanificare il grande impegno che in questi mesi l'azienda ha profuso per migliorare il proprio assetto industriale ed economico e tutelare e valorizzare la grande tradizione del servizio pubblico. Si chiude così questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.